Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. A Londra Annalisa ha corso più veloce del vento. Ha corso contro il suo destino e ancora una volta ha vinto lei. Quella medaglia di bronzo con record mondiale conquistata alle Paralimpiadi del 2012 è l'ennesima dimostrazione che non esistono barriere di fronte alla forza, al coraggio e alla volontà. È il 1997. Annalisa è la prima ragazza non vedente a partecipare al concorso di Miss Italia. Intorno a sé vede solo luci e ombre. Da un anno ha scoperto di essere affetta da una patologia degenerativa agli occhi. Così, con l'aiuto di una voce collegata ad un auricolare, affronta la sua prima sfida. Non vince, sebbene fosse la super favorita, ma quel giorno avrà l'occasione di mostrare ciò che in un concorso di bellezza invisibile agli occhi, la voce. Nel 1998 vince il Festival di Sanremo, sia nella categoria giovani che in quella dei big. È l'inizio di una carriera colma di riconoscimenti e soddisfazioni, grazie anche all'appoggio del suo ex marito e alla nascita del suo piccolo Fabio. So che sembrerà singolare per chi mi ascolta tutti i giorni da anni che io dedichi una trasmissione a un artista, a una cantante. Non è proprio il mio genere, mi sono sempre occupato di ben altre cose, non perché non abbia sensibilità per l'arte, ma perché ognuno ha le sue specializzazioni. Ma il fatto che oggi parli con e di Annalisa Minetti ha un senso profondo, ha un senso legato alla mia vita, per questo ne parlo, perché sono stato lambito da qualcosa che non appartiene al mio ordine di interessi generale. Annalisa Minetti, innanzitutto buongiorno. Buongiorno. È qui in studio con me e accanto a me. Annalisa Minetti in questi giorni è molto presente, ha appena scritto un suo libro, è stato appena pubblicato un suo brano musicale, poi vi faremo ascoltare, è tutto all'insegna dell'Io Rinasco. Annalisa Minetti sta celebrando una sua rinascita, una delle tante. Io poi non sono manco nemmeno molto d'accordo sul fatto che sia rinata, non è mai morta secondo me. Ma niente, perché spiego un attimo al pubblico perché c'è Annalisa Minetti, qua non ho mai sentito un cantante. Ah, venne una volta Battiato 10 anni fa, ecco, tu sei il secondo artista che viene ai miei microfoni. Io parlo sempre di cose abbastanza crude. Anno 1998, Annalisa Minetti vinse Sanremo. Io casualmente quell'anno lavoravo in Rai, facevo assieme a Chiambretti il dopo festival di Sanremo, quindi me la trovai accanto, seduta vicino, questa ragazza bella, carina, c'era questa sorta di alone misterioso, tutti mi dicevano non è vero che c'è, è tutta una cosa pubblicitaria. Io mettevo le mani davanti agli occhi, Fedez, era vero che non vedevi? In effetti non vedevi. Stupido. Beh, così era. Quella notte nacque mio figlio, quindi Chiambretti detto la grande annuncio, nasce un figlio di Nicoletti. Io dicevo, ma stavo a Sanremo, nasceva il figlio, chi se ne importa. Il figlio era Tommy, quello di cui ormai ho molto parlato, e circa 16-17 anni dopo mi venne voglia di rivedere Annalisa Minetti. Perché? Perché era la persona che in qualche maniera mi sta vicino. Quando nacque mio figlio non c'ero. Mi venne a trovare a casa un giorno, entrò dentro casa inciampando nello zerbino, entrò in contatto, in collisione con Tommy, che subito apprezzò che eri venuta, mi sembra. Sì, moltissimo. Apprezzato, sì. Sì, la mia presenza era apprezzata, sì, da tuo apprezzò, figlio. La smanacciò notevolmente e cominciamo a raccontarci le reciproche vite, per due persone che si erano soltanto sfiorati, poi ognuno aveva avuto la sua storia, la sua vita. Il suo percorso. E scoprì che anche Annalisa aveva in famiglia un fratello con problemi simili a quelli di Tommy, sì. E capì che era qualcosa di diverso, oltre una cantante, un artista, un atleta, una persona che realmente, sinceramente, era fortemente impegnata anche in vicende sociali. Tu nasci come cantante, ma come cosa, quando eri bambina che volevi fare? Quando ero bambina volevo fare il poliziotto come il mio papà. Tuo padre era poliziotto? Mio papà era un poliziotto, è diventato poi ispettore, io di conseguenza vivevo con un'educazione militare, volevo fare una vita militare, volevo crescere, fare l'esercito, amavo già fondamentalmente lo sport, quindi le fatiche fisiche mi piacevano. Poi chiaramente a 18 anni, quando ho fatto il primo concorso, passai tutta la teoria, ma fisicamente mi dissero che c'era un limite visivo che non poteva essere concedermi l'opportunità di vivere questa esperienza, e quindi da lì rinunciai a prescindere, ma già coltivavo la passione per la musica, che chiaramente si esprimeva nei locali di Milano e dintorni. E mio papà mi diceva sempre, ma tu lo sai che quello non è un lavoro, vero? E io, no papà, però è la mia passione. Sì, ma non è un lavoro, quindi farai altro nella vita. Io, papà, però, no amore, farai altro. Io, molto bene, non era un consiglio di fondo, non voleva essere un consiglio. È andata bene, Annalisa? Rendiconto è un'altra cosa che accomuna le nostre vite. Mio padre mi ha sempre rinfacciato il lavoro che facevo dicendo: adesso che hai imparato a mettere due parole in fila, chi ti credi d'essere? E io ci ho mantenuto una famiglia mettendo due parole in fila. E io ancora lo faccio, esatto. Allora, Annalisa Minetti, tra poco, 800 24 00 24, è a vostra disposizione, a nostra disposizione, per raccontare la sua vita, le sue difficoltà e anche le sue vittorie. Sono state tante, notevoli, anche a prezzo di forte sacrificio. Esatto. Quella disciplina probabilmente che gli nasce l'avere un padre poliziotto è la stessa per cui ci siamo visti qualche giorno prima della maratona di Roma. E c'avevi i tendini a pezzi, piangevi, cosa c'avevi? Sì, eri distrutta. No, i tendini, devo dire la verità, me li ha recuperati mio marito e quindi stanno bene. Hai sposato il tuo fisioterapista praticamente, il tuo massaggiatore? No, lui è molto di più, lui è un ricercatore scientifico in realtà. Quello che metteva più le mani addosso. Nelle sue competenze c'era anche quella di riabilitare le persone dopo dei traumi fisici, e quindi aveva riabilitato anche il mio. E ero stanca, ero molto stanca, avevo anche tanta paura di affrontare questa avventura, ma come mi avevi detto tu e Gigi, insomma, ce l'avrei fatta, e così è stato. Gigi e Gigi Mazzone, il neuropsichiatra che spesso questi microfoni, che è mental coach della Nazionale Italiana di Spada, che disse: vedrai che ce la farai. Facevi una maratona che non era proprio nelle corde del tuo allenamento. Non era nella mia, diciamo, prima espressione atletica. Io arrivavo dal mezzo fondo, però tu lo sai, dove c'è la volontà, dove c'è comunque l'abilità a utilizzare la mente in un certo modo, e quindi a rendere, enfatizzare, esprimere al meglio le proprie capacità atletiche, io devo, fondamentalmente penso che sia stata una delle esperienze più belle, ed è l'espressione per quanto riguarda la corsa più entusiasmante. Tu corri tra le persone, c'è un momento in cui non pensi più al tempo e quindi a ridurre, a fare il record, ma pensi a gustarti quel percorso che dura 42 km, quindi c'è tutto il tempo di pensare, di riflettere e di vivere quel momento, che non è chiaramente possibile in un gesto atletico che dura 2 minuti come l'800 metri. Hai battuto un record comunque. Ho battuto il record europeo e sono stata strafelicissima, però sono arrivata che stavo bene, che mi sono divertita, mi sono appassionata e soprattutto sono riuscita a motivare le persone intorno a me. Abbiamo raccolto un ragazzo spagnolo che stava piangendo che aveva i crampi, abbiamo intoppato dentro un ragazzo francese che lì per lì si è arrabbiato, poi ha capito, gli ho detto: dai, vieni con me al traguardo. Quindi abbiamo anche raccolto tantissime persone, e tante persone italiane mi toccavano le mani e mi dicevano: dai, tu sai, io corro con una benda sugli occhi, no, coperta, per sincerare comunque i giudici che io non veda, perché loro devono avere garanzie, esatto, sia mai che, insomma, che li prendi in giro. E c'erano queste persone che mi arrivavano a sorpresa, mi toccavano: dai, siamo tutti con te, ti aspettiamo al traguardo. Quindi è stata veramente una festa. La maratona di Roma è una festa dello sport. Rischia che prima o poi qualcuno vedrà e dirà: Annalisa, faccia grazia, si prenderà dei brandelli le tue vesti per farne una relica. L'altro giorno ho avuto un bellissimo riscontro, stavo camminando con mio marito, stavo facendo una passeggiata ieri, e un ragazzo come me, ipovedente, io chiaramente non più, e lui si è avvicinato e mi ha detto: sai Annalisa, grazie a te io adesso corro, ho la tua stessa malattia, ho perso 10 kg in pochissimo correndo nei parchi qui intorno, e ti stavo cercando per chiederti appunto e ringraziarti per come hai cambiato la mia vita. A 46 anni ho una famiglia e non mi sono abbattuto, quindi per me questa è la vittoria più grande, è questo che voglio fare, riabilitare le persone. Mi viene da ridere, Annalisa, che io da 10 minuti sto facendo segno taglia e mi sono scordato che non vedi, perché dobbiamo dare la linea un attimo. Zitta un attimo, fa un secondo. Melog, cronache meridiane. Abbiamo acceso il microfono e tutti hanno sentito che cantavi sulla tua canzone. È vero? Sì, non ne potevi fare a meno. No. Senti, rinasci da cosa? Fammi capire. Rinasco da tutte le volte che in qualche modo ho sentito il bisogno di rialzarmi in piedi. Questo è un libro che fondamentalmente racconta cinque protagonisti. I reality protagonisti sono cinque persone che hanno condiviso quel percorso e quindi quel momento di grande dolore. Perché sai, molto spesso vengo raccontata come la superdonna, la Wonder Woman, quella che ce la fa sempre, quella che non soffre quasi mai, o che sembra non soffri quasi mai. In realtà non è così. C'è stato perché chi ha un problema dovrebbe sempre piangersi addosso. Il mondo non tollera che uno possa esprimere anche uno spirito di rivalsa, di felicità, di desiderio. No, far come qualcosa. Dicevi tu alla presentazione, io ho voluto raccontare i miei limiti in questo caso, un momento della mia vita dove hanno avuto sicuramente la meglio le mie fragilità, e di conseguenza tutto quello che viene chiamato, perché così che si chiama, depressione, attacchi di panico. Sei stata depressa? Sono stata depressa, assolutamente. Sembra sì, impossibile. Sai, fondamentalmente, psicologicamente, ho proprio elaborato un lutto. Non avevo fatto fino a quel momento. Io fino a quel momento avevo detto sì, è vero, non vedo, ma non importa, ho le mie sagome, ho le mie ombre, i miei chiaroscuri, e questo mi basta, me l'ero fatto bastare, avevo riempito, immagina, avevo messo tutti i miei dolori sotto un tappeto. C'è stato un momento in cui sono entrata in questa casa nuova con mio figlio da sola e sono inciampata in questo tappeto, sono inciampata e ho dovuto per forza anche a casa mia si è inciampata nello zerbino, però metaforicamente ho dovuto sollevare quel tappeto e fare i conti con quei dolori con il quale ancora non avevo mai parlato in realtà, e di conseguenza ho messo in discussione tutto la mia figura di mental coach. Diciamo, ma come posso dare alla gente la forza quando io la forza non la sto sentendo in questo momento? E poi tutte queste persone che si sono intrecciate alla mia vita hanno raccontato a me che il mio dolore non era centrale. Ti do una grande occasione, ferma un attimo perché dobbiamo anche dare voce a chi ci ascolta. 800 24 00 24, ce l'hai proprio fresca di giornata. Valeria, buongiorno. Valeria, sveglia. Valeria. Sì, sì. Ciao Valeria. Ah, Valeria, eccoci sì, qua. Ciao, vi sento benissimo. Allora, dimmi cosa volevi dirci. Ecco, ho sentito che Annalisa ha fatto la maratona di Roma. Sì. E anch'io ho partecipato a questa maratona, per la mia prima maratona. Come è stato? Per me è stata la felicità. Vero? Proprio così, perché è stata la mia prima, ma l'importante è che mi sono messa in gioco e alla mia età. Io ho 66 anni. Sei un mito, Valeria. Ce l'hai fatta tutta, tutti i 42 chilometri? Sì, in 4 ore e 52 minuti. Sei un mito doppio? Allora, io ho cominciato a correre dopo la pensione. Hai avuto il tuo tempo, ti sei preso il tuo tempo. Come dici tu, le gambe servono, il cervello ancora di più. Esatto. Cara Valeria, c'è chi a 66 anni si accontenta di andare al centro anziani a ballare la mazurka, tu sei messa a correre, ti mantieni forse un pochino più avanti nel tempo, efficiente, evidentemente è una scelta intelligente. Come hai fatto proprio la maratona, che la cosa più pesante e difficile? Hai cominciato magari con qualche mesi di lacrime e sangue, questo. Ah, proprio un allenamento vero, serio. E certo, se no non ci arrivi. Io ho avuto la fortuna, come l'Annalisa, anziché di avere un marito, un fratello che è insegnante di educazione fisica e mi ha preparato come Dio comanda. Questa sorta di organizzazione familiare per mandare la sorella, non certo ragazzina, diciamo, a fare la maratona è divertente. O si vuole sbarazzare di te per motivi d'eredità, o se no ti ha fatto un gran regalo. No, gli ha fatto un gran regalo. Un gran regalo. Bellissima questa, sì. E mio marito, che è stato anche lui un allenatore in seconda, visto che è un ex atleta. Mm-hmm. E lui ha partecipato. Quindi una famiglia di sportivi, in realtà, lui, Valeria. Sì, infatti, era il nostro DNA. Dovevo alla fine anch'io fare qualcosa di positivo, ma posso dire una cosa? Come te, sì, dimmi. Valeria, mi dà uno spunto enorme per dirti una cosa, Gianluca, è una cosa che volevo dire a tutti gli ascoltatori. Quello che è successo a Valeria è quello che succede raramente in realtà, cioè una persona con competenza, quindi un educatore, una persona che ha una competenza scientifica sulle scienze motorie, e quindi che ha permesso a Valeria di avere realmente una giusta progettualità sull'aspetto dell'allenamento, quindi un metodo che lei ha fatto suo e che con grande controllo e grande competenza competenza da parte di suo fratello, quindi di questa persona che appunto sa quello che fa, lei è arrivata indenne al traguardo. Questo è una cosa che purtroppo succede raramente, perché molte persone si stanno improvvisando allenatori, e non ci si può improvvisare allenatori con dei piccoli corsi e con tanta volontà. Non serve soltanto la passione, dovete avere una laurea nelle scienze motorie, perché questo vi darà la possibilità di non fare danni in giro. Se lei è in piedi, se lei sta bene ed è felice del percorso che ha fatto, è perché chi l'ha resa competente e consapevole di quel percorso è una persona appunto con grandi competenze. Anche tu stai studiando, vero? Anch'io sto studiando, sì, le scienze motorie. Ti appunto. Sai per lavare le scienze motorie? Sì, sì, mi manca allora, ancora un bel po'. Gloria, buongiorno, Gloria. Oh, buongiorno. Ciao Annalisa, io ciao. Sono Gloria. Ciao, senti, io ti ammiro moltissimo, veramente. Grazie. Guarda, mi sei sempre piaciuta dalla prima volta che ti ho visto. Anch'io purtroppo ho il tuo stesso problema, sono ancora ipovedente, però ancora spero di rimanerla, nel senso che ormai ho 60 anni, quindi spero di non peggiorare di più, perché però anch'io... Quando la gente dice ormai, ormai non è ormai, ho ancora 60 anni, no? Ormai. No, no, ma... Mi rimane molto difficile perché li ho appena compiuti, ero abituata al 5, ora 6, non riesco a dirlo, però anch'io da poco mi sono abituata al 4. Io 40. Sto pensando al 7 come un incubo, quindi lasciate perdere. No, senti, io per esempio ho trovato ho messo tantissimo tempo prima di ammetterlo, non soltanto a me stessa ma anche agli altri. Proprio io non riuscivo a parlarne con nessuno. È stato mio figlio che mi ha aiutato moltissimo, mi ha detto: mamma, ma se tu non ne parli mai non potrai neanche avere l'aiuto dalle persone. Ma come non ne parlavi? Esatto. Ma fammi capire, vuol dire non ne parlavi? Facevi finta di vedere, cosa vuol dire non ne parlavi? No, io proprio si avevo un vissuto tale che io ero talmente ostinata, continuavo a uscire da sola, sono caduta, mi sono fatta male. Cioè, fino a che proprio non mi sono rotta un braccio, che ho detto: signore grazie, perché potevo rompermi la testa. Io fino a quel momento non mi davo per vinta. No, ma c'è un momento, Gloria, io ho provato la vergogna, non era facile dire: sapete, non vedo, e quindi comunque dire agli altri ho quella che gli altri chiamano come disabilità, esatto, perché brava. Tu fondamentalmente ti associa al fatto che sei disabile. Poi ho capito dopo che potevo scegliere di non essere disabile, io potevo scegliere di essere specialmente abile. Infatti, e quindi infatti. Questa è stata la mia salvezza, capire che quella era solo una parola sul dizionario e io non appartenevo a quel concetto. Poterne parlare con le persone, con le mie amiche, è stato proprio una liberazione incredibile. E poi oltretutto quello che a me aiuta tantissimo da anni è lo yoga. E io fallo, yoga se ti aiuta fallo. Anni. Come? Fallo, fa tutto sì, quello però, che Annalisa, ti aiuta. Dammi una lettura tecnica di questo fatto, visto che prendiamo lo spunto certo. da quello che ci dice Gloria. Essere ipovedenti vuol dire che c'è una graduale perdita della vista. Allora fare il percorso con una retinite pigmentosa, la fortuna di Gloria che è arrivata chiaramente a 60 anni con un residuo visivo, e chiaramente sicuramente non lo perderà, perché le cellule chiaramente rallentano il loro decorso e quindi è più lenta la malattia, la sua degenerazione, sicuramente non arriverà alla cecità. È chiaro che c'è un momento della patologia che tu ti rendi conto che c'è qualcosa che non va, ma non è abbastanza per dire agli altri c'è un problema, non lo dici, perché hai la visuale di un po' tutto ma ti manca il dettaglio. Inizialmente è così, quindi poi, puoi simulare che vedi quasi normalmente. Sì, sì. Io, e poi soprattutto vieni al mondo che già non vedi bene e pensi che gli altri vedano come vedi tu. Non te la fai la domanda, perché comunque il libro sul banco lo vedi, le matite sul banco le vedi, ma magari incomincia a non vedere bene le parole sul libro, incomincia a non vedere bene la lavagna, ma sei distratta per la gente, sei semplicemente sbadata. Questo mi dicevano: sei troppo sbadata, leggi male, non scrivi bene, non sei ordinata. Io pativo questi rimproveri, ma non li associavo al fatto che non vedevo, li associavo al fatto che ero sbadata. A casa ero quella che era sbadata, che era distratta, disattenta, e questo l'ho sofferto, ma silentemente, perché per me era la mia normalità, io ero così. Poi quando ho capito a 16 anni che confrontandomi con gli altri adolescenti, io il palo non lo vedevo, lo prigliavo pieno, il bidone della spazzatura non lo vedevo, ma vedevo la mia amica a fianco a me, vedevo le macchine oltre il bidone, dicevo: perché il bidone non l'ho visto? Perché sono sbadata. Poi chiaramente con la maggiore età mi sono resa conto che non era più distrazione la mia, ma c'era una patologia, e se ne sono accorti i miei insegnanti. Mi hanno detto: senti, da questo momento tu devi fare una visita specialistica. Ho fatto quella visita e mi hanno detto che avevo questa malattia con la degenerazione maculare inclusa, e da quel momento in poi io avrei dovuto aspettare la cecità, che poteva accadere subito come accadere nel tempo, ed è accaduto poco dopo per me, perché è stata abbastanza violenta, quindi a 21 anni si è fatta presente in maniera importante. Allora, Annalisa, ci vuoi fermare un istante, poi mi devi raccontare, già anticipo, mi hanno appena mandato la copertina National Geographic che parla di un microchip che si installa nella retina. Adesso mi spieghi bene. Te lo spiego bene. Ma pare questa copertina l'abbiano fatto perché tu una volta hai detto in televisione che vuoi essere sottoposta a questo tipo di intervento. Ti racconto tutto dopo nella perfezione. Ferma un istante, questo che è interessante, vorrei capire come la donna bionica Annalisa Minetti avrà anche il microchip nella sua retina. Tra un istante. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Senza te tutto cambia intorno, come la mia vita, come un canto sarà. Pensiero indecifrabile che diventa poesia. Io rinasco è una formula con cui Annalisa Minetti ha scritto un libro, ha pubblicato una canzone, la state ascoltando, soprattutto ridà un punto di partenza. Annalisa Minetti, un'artista, una cantante, un atleta, però c'è una parte della sua vita probabilmente nota a chi ha detto i lavori, meno nota al grande pubblico, è quella della attenzione alle persone che hanno qualche difficoltà in più nel fare le cose che normalmente tutti fanno. Questo nasce dalla sua condizione oggettiva. E dall'attenzione, chiaro, della mia esperienza personale, che poi, come dicevamo prima, perché poi questo National Geographic? Perché fondamentalmente... Ho appena detto, sì, prima della pausa, c'è una copertina National Geographic, c'è la fine della cecità. Esatto. È uscita questa copertina dopo che tu avevi detto qualcosa. Sì, ero andata in televisione appunto a raccontare che c'era questo microchip che si posiziona nel secondo strato di retina, perché abbiamo tre strati di retina, al secondo strato di retina, che è quello meno leso, e questo in maniera molto, diciamo, rapida dà la possibilità di recuperare parte del visus e quindi della vista. E adesso la sperimentazione è bloccata per ragioni che ancora non conosco, ma temporaneamente, ma è un'evoluzione che dà la possibilità. Tu ti faresti impiantare un microchip dentro l'occhio? Guarda, praticamente quando ho perso la vista io, nell'ultima parte, quella che racconto nel libro, io ho capito che stava accadendo qualcosa di particolare, perché io incominciavo a sentire dolore fisico. Cioè io ogni volta che guardavo una luce io sentivo come dei coltelli, delle lame che tagliavano la retina, mi sentivo veramente male, e quindi odiavo tutto ciò che fino a quel momento avevo amato. Cioè avevi un dolore nel vedere la luce ormai, capivi? Assolutamente sì. Ho incominciato ad avere degli sbalzi di colore, perché i fotorecettori chiaramente erano completamente deceduti e quindi avevano abbandonato la loro attività, e io avevo una retina assolutamente fotosensibile. Come un monitor quando comincia a essere usurato, tu vedi tutto sballato così il monitor. Vedevo tantissimi moscerini neri e poi tutti questi lampi di luce colorata, prima rosso, poi azzurro, poi verde, ed era debilitante, impazzivo, mal di testa, emicranie, stavo veramente male. Avevo capito che era arrivato il momento in cui salutare, per il quale comunque avrei dovuto raccontare a me stessa: ok, è finita, il percorso l'ha fatto, la malattia ha fatto tutto quello che doveva fare, non può più degenerare, da questo momento è finita così. E da quel momento però l'idea di andare dal professore che mi aveva curato fino a quel momento, il professor Cusumano, e lui mi aveva detto, ed è stato un momento veramente difficile, Gianluca, la ragione per la quale racconto anche e mi associo a Gloria, la paura, no? La paura torna sempre, anche se sei abituata a pensare che arriverà quel momento, ma fino a quel momento però non sei realmente preparata. E sentirti dire non c'è più niente da fare mi ha buttato in un baratro assurdo, dove io lì ho dovuto veramente ritrovare non tutta me stessa, più sono andata oltre me stessa. Del microchip chi te l'ha detto? Te? Proprio Cusumano mi ha detto: è vero che non c'è più niente da fare, ma c'è una soluzione non immediata, che appunto è la nanochirurgia, e quindi questo chip è voluto, lo stanno lavorando in California all'università di Stanford, e lì ci sono le mie speranze. Tu ti sei offerta il momento che sarà possibile sperimentarlo. Quando sarà possibile farlo io donerò, cioè lo proverò su un occhio. su un occhio per vedere come reagisce, e poi se reagisce bene su tutti e due. Io sento che andrà molto bene, io sento che ci sarà un momento in cui non si sarà più ciechi. Abbiamo Elisabetta, buongiorno. Salve, sono Elisabetta. Innanzitutto volevo salutare Annalisa, e mi sembra di averla vista qualche anno fa ad un'esibizione ad Assago quando aveva cantato. Ma quanti anni hai, Elisabetta? 14. Ah, sei una bambina. Sei piccolina. Ma sei sola? Chi c'è con te? No, c'è mia mamma. Ah, ecco. Adesso sì. Sto andando proprio a fare una visita oculistica. Ah, grande Eli. E volevo chiederti, qual è stata l'idea di partenza che ti ha spronato per affrontare tutte le tue difficoltà e le sfide a cui ti sei posta davanti? Io in realtà, Elisabetta, quello che ho sempre pensato è che avevo ricevuto un dono. Tanto tempo fa, avevo 18 anni, quando mi sono abbandonata per la prima volta allo sconforto, e ho detto a mio padre: papà, perché a me? E lui mi ha risposto: amore, perché non a te? E quindi lì mi sono resa conto che la fede e la mia volontà avrebbero reso me in qualche modo non invincibile, ma forte davanti al dolore, e che il dolore in realtà non andava combattuto ma condiviso, e dovevo imparare a conviverci semplicemente come se fosse un compagno di vita al quale non potevo chiedere di allontanarsi, a cui non c'era un'alternativa, doveva vivere con me. E quindi ho incominciato a parlare col dolore, e lui è diventato oggi il mio più grande mentore, perché la sofferenza mi ha reso in qualche modo specialmente abile. Ma perché hai fatto questa domanda, Elisabetta? È stata, diciamo, la mia prima domanda quando ho acceso la radio, mi è venuto in mente, perché vabbè, come tutti, alla fine ogni tanto ci si scoraggia per più piccoli più motivi, o grandi, certo, problemi. Ma tu che motivi hai a 14 anni per scoraggiarti, Isabella? No, però vabbè, come si ha ogni tanto i suoi dubbi. Ma guarda, io trovo invece, Gianluca, che questa cosa non sia proprio corretta. Io credo che nell'età evolutiva, quindi adolescenziale, ci sia da parte dei ragazzi mille motivi, soprattutto in questa società. Noi insegniamo nelle scuole, e non lo dicono mai ad alta voce, ma lo dico io, me ne prendo le responsabilità. Non abbiamo più, e non faccio di tutto che l'erba un fascio, però non abbiamo più educatori appassionati con vocazione che dicano a questi ragazzi che i sogni si possono realizzare, che la vita è un diritto di tutti. Non lo fa più nessuno. Quindi questi ragazzi sono scoraggiati. Poi parlano di bullismo, ma pensate che vengano al mondo persone cattive? I ragazzi diventano cattivi, diventano aggressivi, e ognuno di loro ha una storia, ma nessuno più la vuole ascoltare. Sono un numero, legati a un numero, a un voto, e non è così. Non è il metodo educativo che può dare ai nostri ragazzi conforto e voglia di proseguire con speranza il loro percorso. Questa è la mia opinione. Trovo che Elisabetta sia assolutamente opportuna quando dice: ci sono momenti in cui mi scoraggio. A 14 anni ha tutti i motivi per scoraggiarsi, perché vive in questa società. Beh, guarda, io vivevo in un'altra società e considero l'adolescenza uno dei periodi peggiori della vita. a posteriori, quando la vita poi ti addenta in altre diverse, ben più profonde maniere, non puoi che dire a un ragazzo giovane: beh, guarda che il peggio ancora deve venire, fatti contento che ancora tutto sommato hai problemi proprio dell'adolescenza. Però dobbiamo tornare nelle scuole e dire a questi ragazzi: dobbiamo andarci, perché non mi sembra che sono molto presidiate. Dobbiamo andarci e dire: ragazzi, c'è un'opportunità per chiunque, perché questa vita è stata creata per chiunque ed è un dono. Dobbiamo insegnare ai ragazzi che la vita è un dono, e loro non hanno più nelle scuole l'educazione civica, che è un grande danno. Tu da dove partiresti? Tu hai avuto anche una piccola avventura politica che poi fa parte della vita, sì, di ognuno. Però ti sarei posta il problema: se un domani avessi delle responsabilità istituzionali, cosa farei? Se tu potessi scegliere, cosa vorresti fare? Io inserirei una materia didattica che si chiama educazione al sociale. Farei praticare il sociale ai ragazzi, e soprattutto farei orientamento sportivo nelle scuole. Darei molte più ore di educazione fisica, e non per il loro stato fisico, ma soprattutto per il loro stato mentale. Darei a loro la possibilità di capire che attraverso la loro psicologia, una psicologia del senso comune, si può ritrovare se stessi nei momenti peggiori, e che devono avere la forza e il coraggio di capire fisicamente dove sono posti, in che modo muoversi, con la sicurezza di farlo. L'orientamento sportivo non è divento magra, ma è capisco e comprendo me stessa e comprendo come muovermi in questa società. Tu mi devi spiegare un paradosso, visto che è un campo in cui ti muovi con molto molta competenza. Viviamo in una società in cui le palestre sono strapiene. C'è una palestra di fronte a casa mia, c'è il via vai di signore dalla prima mattina fino al tardo pomeriggio. Mm-hmm. Quindi c'è l'idea dello sport e l'attività fisica. Nelle scuole l'educazione fisica è l'ora in cui non si fa una mazza. Ma sono due ore. Ma come mai? Due ore settimanali sono pochissime. Perché la matematica sì, l'italiano sì, l'educazione fisica no? Perché non si è capito quanto importante è lo sport e l'educazione alla scienza motoria. L'educazione alla scienza motoria non è fare ginnastica. Non è solo questo, è molto di più, è capire, comprendere, avere un minimo di competenza nella propria anatomia e quindi nella propria fisiologia, cioè l'aspetto funzionale dell'anatomia è molto molto di più, è dare competenza ai ragazzi delle proprie certezze e sicurezze nel movimento, non quello fisico, ma quello proprio opportuno mentale. Dovrebbe proprio entrare nell'idea del programma scolastico. Ma dovrebbe essere programma scolastico dalla scuola materna in poi. Perché non lo fanno? Lo sai perché non lo fanno? Perché purtroppo le maestre non hanno la competenza per poter gestire dei bambini piccoli a livello motorio e quindi chiaramente c'è il pericolo che si possano fare del male. Ma se ci fossero invece delle insegnanti che arrivano dalle scienze motorie, potrebbero occuparsene con tranquillità. E ci dovrebbero essere psicologi nelle scuole, perché i ragazzi hanno bisogno di sportelli dove comunque filosoficamente interpretare la loro vita. Ci fermiamo un istante, 800 24 00 24, avete ancora una tranche di trasmissione per parlare con Annalisa Minetti, a tra poco. Melog, cronache meridiane. Oggi ti porto a vedere un mio allenamento di quelli seri, insomma, non che io ne abbia fatti mai di finti, perché insomma ho sempre portato ottimi risultati nel movimento paralimpico, però il ciclismo per me è tutta una novità che vivo con grande passione e con grande dedizione. Sì, miseria. 800 24 00 24, questa è Annalisa Minetti in un programma domenica 5 che si allenava al ciclismo su pista in tante. Ma quanti sport hai fatto, Annalisa? Io li ho fatti più o meno tutti, ho fatto anche l'arrampicata, ho fatto la fitbox, mi sono divertita a fare tutto, anche perché lo sport è bello conoscerlo tutto, per quello che ti parlavo prima di orientamento sportivo. I ragazzi poi devono scegliere quello che lo appassiona di più o di meno, ma di fondo ritorno a dire che l'ABC, no, come nella danza classica, nelle scienze legate alla danza, la corsa invece è proprio l'ABC per tutti gli sport, è di base e di utilizzo, di preparazione a tutti gli sport. Tu mi hai lavorato con ragazzi difficili, con problemi particolari? Io faccio parte del paralimpico, quindi di ragazzi comunque con delle difficoltà fisiche e mentali, la FISDIR per esempio, cioè quella federazione che si occupa proprio di bambini con problemi relazionali, no? Che hanno difficoltà a comprendere le cose, quindi per loro gli Special Olympics per esempio, no? Ragazzi che non sempre è facile spiegare le regole del gioco, le regole della squadra e come ci si comporta nello spogliatoio, sono veramente degli esperti che si devono approcciare a questi ragazzi per poter comunque farli entrare all'interno dello sport con la naturalezza. Non parlo più di normalità perché è un concetto che veramente vorrei debilitare, parlo di naturalezza. Ecco, se tu dovessi scegliere cosa farai da grande, a parte diciamo i percorsi artistici, i percorsi sportivi, a cosa vorresti dedicarti? Da dove vorresti cominciare proprio in questa attività? Tu stai studiando per dare degli strumenti di socializzazione, ma esatto, anche di cultura agli esseri umani. Io voglio che la gente impari a fare quello che mi ha insegnato mio marito, a vedere. Mio marito una volta mi ha detto: sai, non vede chi non sa. E quindi io voglio che i ragazzi si applichino a sapere, che le persone vogliano avere il desiderio di comprendere, perché quando si vuole sapere si cerca informazioni, quando si cerca informazioni si scoprono delle cose che invece diversamente non potevano sapere. E quale, quando la massa viene controllata, quando la gente non sa, e dovete sapere, dovete essere competenti in un po' tutto, in maniera tale da non essere più controllati, gestiti, comandati, dovete scegliere quello di cui fare nella vita e non farvi comandare o gestire da qualcun altro. Abbiamo un professore di scuola superiore che ha qualcosa da dire, abbiamo toccato, certo, uno dei tanti punti dolenti della scuola. Luca, buongiorno. Sì, buongiorno. L'ascoltiamo. Buongiorno Luca. Allora, intanto complimenti, perché il messaggio è sicuramente positivo, cioè quello che i ragazzi devono essere anche abituati a sognare, a sapere che possono fare, perché quello che io vedo è che c'è un po' di... I ragazzi adesso, io sono da poco, sono 2 anni che sono di ruolo a scuola, li vedo un po' diciamo se volete rassegnati. Sì, parlando della parte dell'educazione fisica. Beh, la società è rassegnata, Luca, un po' tutto. Respirano la rassegnazione che respirano a casa insieme alla pasta asciutta. Hai purtroppo, visto che insegni da 2 anni, hai come eredità preso una scuola veramente maldestra, insomma, malsana. Allora, Luca. Quello che io mi stupisco appunto su questo discorso che facevate dell'educazione fisica è che con lei io non insegno educazione fisica, io faccio fisica, ma quella matematica. E certo, quindi non sono buono. Educazione fisica, mi dicono i colleghi, ma non uno solo, parecchi, che i ragazzi non vogliono fare educazione fisica, non vengono in tuta perché i ragazzi, perché ha detto che sudano e le ragazze si struccano. Quindi questa è la situazione adesso. Quindi era per farvi un quadro. Luca. Attuale, che per me è disarmante, cioè per me quando io andavo a scuola era la materia preferita. E giochiamo, cioè uno si divertiva un po', invece loro si rifiutano. Ma cosa fanno durante le ore di educazione fisica, che fanno allora, quindi mediamente? Niente, no, questi che si rifiutano, che appunto non sono pochi, vengono vestiti magari con le scarpe e stanno lì di lato e guardano e stanno al cellulare. E giocano con lo smartphone. Esatto, e si fanno gli affari. Ascolta, Annisa, da dove bisogna partire? Perché questo è un problema indubbio. La ragazzina che si sente allora, carina, non vuole rinunciare comunque al trucco, al parrucco, ai vestiti, alle unghie, alle scarpe, via dicendo. Bisogna dedicare più tempo in maniera tale che i ragazzi, per esempio, a parte che se una ragazzina mi dice ma io mi strucco, tu ti strucchi e poi ti ritrucchi dopo in bagno, ti do il tempo di farlo e non rompi poi più di tanto, nel senso che c'è un atteggiamento da parte dei ragazzi un po' scostante, chiaramente sono stati abituati a contraddire a prescindere, loro vogliono essere contraddittori a prescindere, questo è sbagliato, ma è l'educazione a cui noi stiamo dando la possibilità di sfociare. Oggi i ragazzi vogliono in qualche modo essere contraddittori e difendersi essendo aggressivi, bulli. Guarda che il bullismo non è solo dei maschietti, anche le femminucce, perché è una femminuccia mi dice ma io non lo faccio perché mi strucco, tendenzialmente si sta aprendo a un atteggiamento che è assolutamente sbagliato. Allora dove deve subentrare l'aspetto psicologico, anche quindi la competenza psicologica, capire questi ragazzi, farli parlare e portarli comunque a comprendere che quello è il momento, è la loro opportunità per condividere, socializzare e imparare a stare con gli altri attraverso il movimento, che è quello che a noi viene più naturale fare, il gioco, lo sport quando si è giovani in età evolutiva è un gioco. Sì, ma ti rendi conto che la prima discriminazione cocente, forte, dolorosa che prova un essere umano a scuola quando è vittima di un atto di discriminazione o di bullismo è proprio sulle necessità fisiche. Sei grasso, sei brutto, c'hai gli occhiali. Ma viviamo in un mondo che racconta l'immagine, l'importanza della bellezza, ma la bellezza interiore non la racconta più nessuno. Spettacolarizziamo alcune cose e ne debilitiamo altre. Questo è molto sbagliato. I ragazzi non hanno la conoscenza di se stessi, non ce l'hanno, vivono con degli stereotipi che sono assolutamente sbagliati. Quanto ti manca per laurearti, Annalisa? Ah, tanto! Lo dico per dare un respiro di tranquillità a quelli che ci stanno ascoltando, che mai faranno in tempo a finire il liceo, perché quando arriverà Annalisa Minetti a fare l'insegnante o la titolare di un istituto, perché ma non farà l'insegnante. Devo dire, sono un po' steneriara in questo, quindi lontana. Sì, però... ma saranno tempi brutti per chi ti avrà come insegnante, perché sarai senz'altro. Ma secondo me molto saranno rigorosa. Tempi bellissimi invece, perché io darò modo a loro di trovare il metodo più giusto per appassionarsi a quello che stanno facendo. Sono loro la nostra fonte di cambiamento. Loro ci possono insegnare, indirizzare al cambiamento. Dovete far parlare i vostri ragazzi e fargli capire e comprendere che l'opportunità che hanno è quella di insegnare e non di essere in qualche modo seduti dietro un barco e ritenuti nulla. Loro per noi e per me sono importantissimi. Ci lasciamo, il nostro tempo è finito. Annalisa, ci lasciamo sulle note di Orinasco, che in fondo mi sembra che sia un impegno che vada oltre l'aver fatto una canzone e l'aver scritto un libro. Alla prossima. Ciao a tutti. Yeah!